Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, 8-19 minuti, eccoci. Eccoci qua in diretta, caro Oscar. Allora? Allora, siamo pronti. Trump e Clinton hanno litigato. Beh, vai, si sa, era abbastanza. Cioè, New York Times scrive stamattina la sua edizione online un confronto televisivo come non ce ne sono mai state in una storia presidenziale, dove la volontà di entrambi sul ring non è di rispettarsi ma di buttarsi fuori. Però io segnalo a tutti gli ascoltatori, quelli che sanno l'inglese, andate sul sito della CNN, perché la CNN ha poi un team di fact checking, no? E adesso ha analizzato già dopo due ore tutto quello che hanno detto frase per frase, dicendo ma è vero o è falso, lo mettono in relazione a dichiarazioni simili di qualche anno fa. E hanno scoperto che, secondo loro, credo Trump abbia detto più cose, diciamo, non congruenti con quello che ha detto in passato. Che è coerente, mettiamola, con quello così, che fino a questo momento è accertato da chi fa questo mestiere negli Stati Uniti, perché sai che hanno fatto addirittura una media temporale di ogni quanti minuti dice una cosa che non sta in piedi, che si contraddice con quello che ha detto magari due anni prima. Perché lui ha sempre rivendicato questo diritto. Io posso anche cambiare idea. Il problema è che quando la cambi così spesso, come presidente, non sei affidabile. Potrebbe fare il politico in Italia, allora, perché sei candidato? Io penso America. Che in Italia Trump eclisserebbe Berlusconi, ma in una maniera, secondo me, molto significativa. Cioè, Berlusconi apprirebbe a volta persino misurato rispetto a quello che dice Trump. Il modello più o meno è un po' quello, però insomma. Però Oscar, i santi, ci siamo giocati i santi, poi ce n'è uno che ci devi dire in anteprima. No, ma quello in anteprima lo dico, perché ieri quando l'ho tirato fuori tutti hanno rimbalzato su Twitter, eccetera, perché siccome io, sai, che sono uno che crede che queste cose abbiano un senso, perché sì, il calendario liturgico si è sedimentato nei secoli e quindi rispecchia tutte le scelte del tempo della Chiesa, per così dire. Allora il 4 dicembre, giorno del referendum, sul quale i giornali tutti oggi profondono un mucchio di pagine, tra gli altri c'è un santo, sono soltanto a vedere e ho visto il bagliore della saggezza della Chiesa, c'è, perché casualmente il 4 dicembre c'è San Sola, che in romanesco sola vuol dire, hai capito tutti, ci siamo capiti. Però c'è San Sola, dite, ah, l'hai trovato tu, no, andate a vedere il 4 dicembre, tra gli altri santi c'è San Sola. Oggi devo dire la verità, c'è un santo di quelli, non sono tantissimi, ma quello di oggi è uno di quelli che mi piace davvero tanto, e non mi riferisco al fatto che oggi è l'anniversario della fondazione dei Gesuiti, no, ma oggi è San Vincenzo de Paoli. San Vincenzo de Paoli è una di quelle figure, oggi sarebbe praticamente in Medici Senza Frontiere, sarebbe in Amnesty International, perché era un poverissimo guascone francese, studia, diventa sacerdote, poi pensate, cade prigioniero dei pirati turchi, quindi diventa schiavo dei musulmani ad Algeri, converte il suo padrone, che era un ex frate peraltro, e torna in Francia e si occupa dei galeotti e dei poveri. Tanto che la regina di Francia, la mitica Anna d'Austria, quella dei tre moschettieri, lo rende ministro della carità a livello nazionale. Si è sempre occupato di questo, e mentre i gesuiti, che nascevano nel 1540, oggi sono sempre occupati delle classi dirigenti, dei potenti, dei principi. Ecco, io sto con San Vincenzo de Paoli. Devo ammettere che tra gli altri oggi nati, auguri a Nicola Porro, a Gwyneth Paltrow, che non so se abbiamo tra i nostri ascoltatori, no, e a Giorgio Cremaschi, che è Totti anche, ma è oggi Totti? Capito, no. Era ieri, quello ieri. Forse Jovanotti invece. No, oggi forse. Jovanotti che fa Jovanotti 50 e Totti 40. Esattamente. Vabbè, ma insomma, tante persone. Però allora noi parleremo un po' di pensioni, dobbiamo parlare, Oscar, perché ieri c'è stato questo annuncio, anzi convochiamo al numero 800240024 tutti i nostri ascoltatori, non so se solo i pensionati. Io già ho detto qualcosa sui pensionati, poi mi vogliono male, ma io non ho niente contro i pensionati, voglio loro benissimo e auguro loro lunghissima vita. Con i pensionati. Ma no, perché ho detto che mi sembra il solito modo di promettere o dare ed è importante, una saccocciata di soldi a fine mese in più a qualcuno, gli 80 euro, anche gli 80 euro, loro magari saranno 40. Renzi ha annunciato la 14ª arriverà a 1000 euro, il patto della lavagna. Sì, lo so, ma se critici viene azzannato, io rispondo a tutti gli ascoltatori, anche ieri ho passato un po' di tempo a rispondere, che dice, non hai proprio niente di cui parlare, luridoverme, per perdere tempo a parlare della nomina della mansione. Se uno scrive luridoverme, ma no, ma capito, cioè, se noi... Se, non metterti se a equivochiamo, livello di uno che no, ma io penso che... Ma io penso che si debba rispondere. C'era anche chi comunque su questa cosa della mansione scriveva senza scrivere luridoverme. Se allora vi sfugge che a violare la legge dall'alto poi si dà un argomento a milioni di italiani che lo violano dicendo beh, insomma, se lo violano dall'alto, scusate, ma lo posso fare no, anch'io, non lo so, se vi sembra diventato irrilevante che facciamo le nomine violando la legge, va bene, allora però non ci lamentiamo di nulla. Ecco, mi limito a dire questo. Sì, però mi ha colpito perché evidentemente l'avvicinarsi alle 4 settimane di cadenza referendaria, caro Alessandro, bisogna sapere che adesso ogni cosa che si dice, nessuno è disposto a dire che fai il tuo mestiere, se fai fact checking o dici questo non è così, quello non è così, ci tireranno tutti, ci da una parte. Sì, lo so, ma questo purtroppo in Italia va è da mettere in conto. Io una cosa che veramente rifuggo, nel senso che rifuggo gli schieramenti, i paletti, sei renziano, no, sei antirenziano. Cioè, se per esempio dici, ha fatto questo annuncio ieri perché i giornali non scrivessero, e infatti su tutti i giornali non viene dato un grande rilievo al fatto che hanno dovuto spostare il Consiglio dei Ministri 24 ore perché c'è un contrasto tra il Premier e il Ministro dell'Economia sui numeri da scrivere nel DEF, perché questa è la ragione per cui l'hanno dovuto slittare di 24 ore, perché il Ministro dell'Economia vorrebbe numeri un po' più prudenti e il Presidente vorrebbe invece accelerare sul piede del deficit. Ecco, questa che è la spiegazione politica, potrà non piacervi, ma è questa. Naturalmente ti dicono, no, è un tuo pensiero perché sei gufo. Neanche per idea, il Consiglio dei Ministri si è dovuto tenere ieri. Comunque l'annuncio è stato fatto con questo patto della lavagna da Del Debbio. Renzi dice daremo più soldi ai pensionati, senti qua. Vengo alle minime. Cosa accade sulle minime? A questi, a tutti questi, gli viene dato una cosiddetta 14ª. Viene più o meno... 80 euro al mese. No, magari 50 euro sono questi qui. No, viene 40 euro al mese, viene tra i 40 e dipende da quanto è la pensione minima, perché è una percentuale. Vabbè, la percentuale, 40 euro, quindi i pensionati saranno contenti se questo annuncio, verrà dato seguito, 40 euro a fine mese, alla 14ª, un po' rimpolpata. Per chi prende 750 euro, diciamo, rispetto alla 14ª che è attualmente di 40, si aggiunge 40, a seconda dall'ammontare cambierà, però... Questa è la cifra, questo è l'annuncio. Ripeto, a me sembrava sembra proprio quella strategia del dire abbiamo una coperta corta, cerchiamo di tirar fuori qualcosa, diamo un po' di soldi per dare un pochino di agio a chi ne ha bisogno, sicuramente, però non vedo una strategia, insomma, una strategia più profonda. Cioè, la mia obiezione che è radicale, è un'obiezione tipo razionale. Cari ascoltatori, per favore, non c'entra niente la politica. A furia di andare avanti con misure ad hoc, discrezionali, con la politica che sceglie di volta in volta a chi darle, perché soglia di reddito e quanto, noi perdiamo di vista una banalità che però va richiamata. I provvedimenti di sgravio, come quelli di sgravio, cioè quelli che danno più agio, più consumi, eccetera, hanno più effetto quanto più sono universali e con criteri generali per tutti, non scelti discrezionalmente dalla politica. Qui continuiamo a dire, a te fino a tot soldi ti do 80 euro, a te te ne do 40, sì, il bonus, al diciottenne do i 500, te quest'anno ti ho messo un ruolo scolastico, allora ti do la carta. Così gli effetti, cioè, sembrano più delle mance, no, ma delle mancette. Al di là dell'aspetto mance, c'è anche che proprio l'effetto generale, come vedete, luglio consumi di nuovo col segno negativo, non funziona questa roba qua. Tra l'altro, sai che sul bonus bebè, che è una delle iniziative di questo tipo, c'è stata questa, non una sentenza, ma una decisione dell'INPS di Milano abbastanza rivoluzionaria, perché è stato concesso al figlio di un turco che ha solamente il permesso di lavoro, non ha, lo scrive oggi il giorno, non ha il, diciamo, un richiedente asilo, non ha, è qui, basta il permesso di lavoro e gli è arrivato il bonus bebè. Adesso si arrabbieranno tanti che diranno, prima noi, prima gli italiani, esatto. Però la logica del giudice ha un senso. Sì. Potrebbe aprire a nuovi bonus bebè. Guarda che ci chiama Vittoria da Milano all'800240024. Vittoria, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Allora, io trovo che questo governo è assolutamente incoerente. Abbiamo fatto i sacrifici col Monti che ci ha fatto il blocco dell'adeguamento Istat per 3 anni e a tutt'oggi noi ne paghiamo le conseguenze, perché la nostra pensione dopo magari 39 anni di lavoro e con un buon stipendio è diminuito sempre di più il potere d'acquisto, quindi siamo quasi arrivati a quelli che non hanno mai pagato una lira di contributi perché hanno lavorato sempre in nero e oggi si vedono perché non hanno reddito, non fanno il 730, non hanno niente, però magari hanno lavorato senza contributi, guadagnando molto di più e ci sfruttano. Perché, ma perché dice ci sfruttano? Ma ci sfruttano perché hanno avuto tutte le agevolazioni col servizio sanitario, coi tram, con tutto, e praticamente non pagano mai niente. E adesso hanno anche la quattordicesima. Ma dico, allora i più fessi sono quelli che hanno lavorato con i contributi, pagando mensilmente i contributi. Lei ce l'ha proprio, si mette lei contro i pensionati che hanno troppo, ecco, che l'ascoltano. Insomma, guardi che sono poi arrabbiati, non credo che abbiano poi troppo, ci sono molti che hanno veramente delle pensioni al minimo. Comunque la ringraziamo Vittoria per questo suo intervento. C'è anche Francesco, ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Mi dispiace per Alessandro, ma io sono d'accordo con la signora prima di me che in Italia non vale la pena di pagare i contributi, perché tanto dopo l'aumento pensionistico arriverà in ogni caso. Quindi cosa serve pagare i contributi? Se dopo magari c'è un tetto che oltre i 1.000 si prenderà in ogni caso. Sì. Ma io volevo dire un'altra cosa per Oscar. Sì. Il discorso del deficit dovrebbe spiegare bene che il deficit non sono altro che nuovi debiti che si assommano a debiti precedenti e a vecchi debiti che dovranno pagare i giovani che non avranno neanche la pensione. Questo è il problema di questo deficit che parlano tanto, che la Germania deve concedere. Sono dei debiti che l'Italia vuole fare proprio a tutto spiano. Debiti che si insommeranno a debiti. Già ne abbiamo di debito. Santa saggezza. Non è un regalo, voglio Santa dire. Santa saggezza, Francesco, ma oramai moltissimi italiani in questi 2 o 3 anni nei sondaggi dichiarano di aver abbracciato la visione che alcuni, a mio giudizio irresponsabili, però autorevoli, economisti e alcuni capi partito in Italia oramai seminano tutti i giorni, cioè quello che il debito può crescere fino a livelli giapponesi senza che si rischi nulli, fino al doppio di quello che c'è oggi in Italia. Non c'è alcun obbligo di pensare che lo Stato debba ripagare il debito, anzi il debito si può annullare, come dice Borghi della Lega, non succederebbe nulla se la BCE annullasse i 1.200 miliardi di titoli pubblici del debito pro quota dell'Eurozona che ha comprato con il QI e così via. Quindi Francesco, bisogna avere molta pazienza, perché a pensarla come lei, come me, che è banale saggezza, è ovvio che l'eccesso di debito diventa un masso, come si vede nella realtà italiana. Però oggi va per la maggiore sempre di più una specie di fuga utopica, per cui il debito è un non problema, il deficit è giusto, anzi più deficit uguale più ricchezza. E i tempi sono questi, bisogna avere molta pazienza. Sì, tra l'altro ricordiamo che la partita con l'Europa di Renzi è di voler dire almeno togliamo dal computo del deficit gli interventi per il terremoto di un mese fa e per i migranti, e qui c'è la partita terremoto, sull'Europa, migranti, come dire, voi non fate nulla, voi Europa sui diventato, migranti. Però parliamoci chiaro, è diventato un'operetta che noi ogni anno ci inventiamo queste cose, no? Perché ogni anno prima fa scrivere ai giornali per 5 mesi tutta l'estate che c'era un nuovo accordo strutturale per rendere pluriennale il bonus riforme e investimenti invece nelle regole europee per un anno. Tutti i giornali se la sono bevuta, per 5 mesi l'hanno raccontato ai nostri lettori, dopodiché naturalmente muro, nasata contro il muro, e allora si prende un'altra strategia. No, sono i migranti, l'immigrazione, la sicurezza, la cultura, perché la maniera per lottare il terrorismo, ricordati, è la cultura, eccetera, eccetera. Vabbè. Ci chiama anche Maria Rosa da Varese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. senta, io ieri sera ho visto la trasmissione dove c'era Renzi, sì, e le dico che stanotte non ho dormito perché avevo un nodo allo stomaco che non le dico. Noi dovremmo ringraziarlo magari in ginocchio perché ci darà, io che prendo la minima, ci darà 35 euro di quattordicesima. Sì. Poi dopo sentiamo che un politico o qualcosa, quelli che purtroppo abbiamo votato per dirigerci, prendono magari 900, insomma, cifre altissime al mese. Ecco, dunque noi dovremmo ringraziarlo tanto, tantissimo dovremmo ringraziarlo. Guardi, se ce l'avessi qui le butterei sulla faccia non so che cosa. No, Maria Rosa, anche se capisco. Caspita, lei provi a arrivare alla fine del mese con 600 euro dopo che ha lavorato, oltretutto 600 perché c'è la reversibilità, sì. Se no erano 470. Noi dovremmo arrivare alla fine del mese, magari aiutare anche gli immigranti che arrivano, perché dobbiamo aiutarli, noi siamo buoni, li dobbiamo mantenere, abbiamo visto che sono negli alberghi con il telefonino, col biliardo, con i cuochi che poi anche reclamano perché magari non c'è il riso africano oppure, ecco, e noi italiani, arrivati quasi a 80 anni, ecco, dobbiamo barcamenarci per arrivare alla fine del mese con quella minima. Ed è lui adesso dicendo che ci dà 35 euro al mese, ecco, sembra che ci abbia dato l'universo. No, ma è chiaro, non l'ha presa bene, non l'ha fatta dormire. Ci dispiace, Maria Rosa, insomma, è comprensibile le posizioni di tutti, senza giudicare. Io non mi permetto mai di dire una parola quando sento, esatto, di chi è, no? Vive con poche centinaia di euro. Tra l'altro, guarda, Oscar, giro te perché ne sai certamente più di me. Oggi La Verità ha in prima pagina proprio questo, visto che la nostra Maria Rosa citava le pensioni di reversibilità. Parte il taglio delle pensioni di reversibilità, cioè l'INPS ha ricevuto una circolare, e tra l'altro retroattiva come sempre, e vorrebbe far vincolare da ottobre la reversibilità anche al TFR, possesso di BTP, case, cioè se uno, che ne so, ha tre case, ha tanti investimenti in buoni, in BTP, ha un TFR alto, allora rivedere la reversibilità. È diverso perché noi ci siamo dati i criteri della reversibilità in altri decenni, per così dire. I criteri sono effettivamente molto ampi, troppo ampi. Tant'è vero che la spesa in reversibilità è diventata altissima annualmente. Io sono per esempio per quel tipo di taglio. Sì. Chi ha tre case non può avere una reversibilità non ha senso, no? Avere la piena percentuale di reversibilità a prescindere dal reddito patrimoniale, dirò di più, secondo me non ha nemmeno molto senso, faccio il caso appunto del... ripetuto più volte, la badante giovane, sì, no? Sì, che sposa, sì. La reversibilità non dovrebbe anche essere parametrata alla tua età, al tuo arco vitale residuo di lavoro possibile e così via. Lo dico perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che poi il sistema generale delle pensioni è un sistema che bestialmente penalizza i giovani. Come quindi no? E questo lo so, che chi è in pensione dice: ma cosa volete da me? E non le ho scritte io le regole, per cui quando lavoravo io mi dicevano che avevo diritto a questo. Voi avete ragione, però il sistema attuale, siccome è un sistema a ripartizione, quindi le pensioni a voi le pagano i giovani che non riescono ad avere lavoro oggi, con i loro contributi mese per mese. Quando riescono a versare, ecco, perché hanno un lavoro. Ecco, bisogna anche ricordarsi che quindi i criteri eccessivamente generosi, figli di altri tempi, per dare la reversibilità bisogna stringerli, perché poi alla fine i giovani che devono pagare di mese in mese non ci sono, questo è il punto. Comunque noi tra un attimo, dopo la pubblicità, continuando su questo tema, chiamateci all'800 24 00 24, parleremo anche un po' di università e parleremo di questo caso di Vicenza, dove c'è questo primario che è stato sospeso, è quello che ha denunciato le chat tra gli infermieri. Si leggevano cose un po' raccapriccianti. Tra infermieri a Vicenza, tra poco. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com. Il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. 8:41 minuti. Eccoci, caro Oscar, siamo qui. Eccoci, allora, eccoci. Dobbiamo parlare intanto a partire da quello che è successo a Vicenza. Ti ricordi quella vicenda al San Bortolo di Vicenza? A me ha fatto venire i brividi. Anche a me ha fatto venire i brividi. Cioè, fu scoperta una chat su WhatsApp, diciamolo pure francamente, tra infermieri e credo anche medici alcuni, in cui si giocava, questa è la parola giusta, si giocava tra di loro via chat a chi avrebbe infilato. Si giocava. Si giocava. Si parlava. Si parlava, scusami. Si chattava. E poi se uno dice si giocava, è certo che è tutto uno scherzo. Mm. Ma intanto lì si leggeva che. Si promuoveva una gara a usare, ecco, le cannule più grosse sui pazienti che sarebbero arrivati. Per entrare le, con tanto nei vasi. Di punti. Con tanto di punti. Chi mette la cannula più grossa, ovviamente provocando quindi dolore ai pazienti. Mm. Cosa che a leggerle uno non dice, ah che bel giochetto si sono inventati per ingannare il tempo libero. Cioè, uno legge e dice, mio Dio! Inquietante. Ecco. Il primario Vincenzo Riboni, che leggiamo ieri sul Corriere della Sera, che ha denunciato questa vicenda, è stato sospeso. Allora, noi abbiamo chiamato il direttore generale della USLA 6, competente di Vicenza, Giovanni Pavesi. Buongiorno, dottor Pavesi, eccoci qua. Buongiorno. Perché ci buongiorno. Deve aiutare a fare chiarezza. Allora, io ho detto giocava, questo è un punto dirimente, anche se secondo me è gravissimo che ci siano delle chat del genere. Però lei ci conferma che tutto è rimasto come stupido, una stupidissima gara mai applicata sul campo. Sì. Buongiorno, dando grazie dell'opportunità che ti dà di dare anche la versione nostra dell'azienda, perché mi pare giusto. E cerco di essere molto telegrafico, dopo lei approfondisca pure i punti che ritiene. Abbiamo ricevuto una denuncia formalizzata da parte del direttore del pronto soccorso che segnalava atti di questo genere, che erano avvenuti nel pronto soccorso, questa odiosa gara di cui lei ha fatto riferimento. Abbiamo fatto un'indagine approfondita interna, ma non solo noi, sono venuti in AS, abbiamo interessato la Procura Generale di Vicenza ed abbiamo avuto un'ispezione del Servizio di Vigilanza Regionale, quello centrale. Non siamo riusciti a fare emergere elementi probanti per dire che la cosa era successa, punto. Aggiungo, dottor Milan, nella denuncia del primario, del dottor Riboni, erano riportate ammissioni di colpa da parte di questi operatori, da parte di infermieri, che poi si rivelarono non solo infondate, ma completamente false, perché, aggiungo io, purtroppo c'erano le registrazioni di questi colloqui in cui gli infermieri negavano e motivavano perché la cosa non era assolutamente avvenuta, e il primario ci riportava invece una versione diametralmente opposta. Quindi il dato di fatto è che adesso è lui sospeso. Finisco proprio per chiarezza, perché capisco che è una vicenda veramente spiacevolissima. Ci siamo trovati quindi nella posizione doverosa di aprire invece un procedimento per un falso ideologico nei confronti del primario, e così abbiamo fatto. Punto. Aggiungo, la chat avvenuta, il dialogo è una sera in cui questi infermieri si sono trovati, è avvenuta, è un fatto gravissimo, sono d'accordo anch'io, però è un fatto che attiene, questa è la valutazione che abbiamo fatto noi, alla sfera della deontologia professionale. Ma quegli di infermieri signori. Sono ancora lì? Ecco. Stavo concludendo il quadro, dopo lei ha tutto. Questi infermieri, primo, sono sei infermieri e due medici. Sono stati tutti segnalati ai rispettivi ordini professionali, sono ordini diversi perché vengono anche da regioni diverse. Sì. Apro e chiudo una parentesi, non mi risulta che a nessuno sia stato comminata alcuna sanzione da parte degli ordini. Glielo dico per cronaca. E aggiungo, nessuno di questi signori, ma questo è un di più che neanche dovrei dire, lavora più al pronto soccorso perché sono destinati ad altri servizi. Quindi questo servizi, però sono sempre infermieri dello stato. Con i pazienti avranno a che fare. Hanno a che fare con i pazienti. Questo è il tema. Si può, dopo una chat del genere, io se fossi di Vicenza avrei un pochino timore a entrare lì, glielo dico. Le ripeto, timore di un fatto che no, almeno mettere in dubbio quelle risultanze della vostra verifica. La ringrazio perché questa è la cosa più importante. Dico solo, deve anche capire, ci mettiamo nelle panne dei nostri lettori, perché anche sentendo la vostra ricostruzione e il fatto che diciamo un odioso scherzo, chiamiamolo così, ma che non c'è alcun riscontro, si sia mai tradotto in atti reali, però resta, mi scusi, che se l'atmosfera in un punto delicato che è quello in cui quando uno ha l'emergenza entra in contatto col sistema pubblico della sanità e la sintesi è di una situazione così alterata in cui ci sono questi scherzi da una parte, ma dall'altra, mi dispiace sottolinearlo, il rapporto tra il responsabile, il primario, e gli operatori è evidentemente così alterato che il primario dice di avere le prove del fatto che loro lo hanno fatto. Voi dite, no, ma come? Nelle ricostruzioni lui dice che loro si sono autoaccusati mentre invece dicevano il contrario. Cioè lei capisce che è la descrizione di qualcosa che comunque ha dentro di sé qualcosa che profondamente non funziona, no? Dottor Giannino, su questo mi trovo perfettamente d'accordo, nel senso che, e lo ripeto, il ruolo di primario, si chiamava primario una volta, si chiamano direttori di struttura complessa, non è una prebenda, non è un premio alla carriera. Presuppone capacità ovviamente cliniche e professionali, ma anche capacità organizzative e manageriali che riteniamo in questo caso non ci sia stato. Quindi il contrasto che adesso è palese tra di noi e il responsabile della struttura è anche su questo, non è solamente l'episodio in se stesso che non è successo, ma è la capacità di relazionarsi e organizzare un gruppo di operatori che non è avvenuta. Io su questo le do perfettamente ragione. Le aggiungo anche però, dottor Giannino, che noi in questo stato di situazione non avevamo gli strumenti e non li abbiamo e onestamente non li avrei utilizzati per licenziare tout court queste persone che hanno fatto questa chat in una serata in compagnia. Fatto gravissimo, questi loro ordini vogliono dire che questa gente non deve fare più questo lavoro, lo può fare, ma tutti gli effetti sono dipendenti del nostro sistema sanitario. Sì, ma è chiaro, la situazione è una vicenda che mi ha addolorato, fotografato bene, però si metta nelle scarpe nostre. Io ho sempre il timore, io ho un obbligo verso i cittadini, e lei ha detto giusto che devono accedere ai nostri servizi con assoluta tranquillità. E anche il rispetto della legge. Ma non solamente della legge, no. Io ho anche 4.000 dipendenti, io abbiamo, solo nella struttura di Vicenza, nell'UCI Vicenza. Devono avere anche loro però la tranquillità che vivono in un sistema anche di relazioni, di rapporti. È chiaro, Pavesi, guardi, è stato chiaro. Sul concetto di rispetto delle regole, guarda, oggi Oscar, per saltare a un altro argomento che a fine ovviamente non è questo argomento. Andiamo alla facoltà di economia dell'Ateneo di Bologna. Di Bologna, dove c'è un docente, si chiama Lucio Picci, che ha detto questo: visto che per noi professori il plagio è assodato ed è impunito, allora io da quest'anno concederò lo stesso privilegio agli studenti che potranno copiare nei miei esami. Io non li controllerò, perché ciò che non vale per noi professori non deve valere per gli studenti. Non so che ne pensa il professor Luciano Aspetta, Canfora. Aspetta però, chiariamo questa cosa, lui la dice perché ci sono episodi documentati di nepotismi, cattedratici di Bologna che vengono contestati da colleghi americani dicendo questa roba qua tu non l'hai mai scritta ed è copiata, e gli sono sparite i loro articoli scientifici. C'è un altro caso, con un caso eclatante di questo tipo, che malgrado tutto è stato promosso. Quindi ecco, lui fa riferimento a casi precisi specifici di colleghi. Esatto. Che ne pensa? Vogliamo chiedere al professor Luciano Canfora, storico, professore emerito di filologia greca e latina all'Università di Bari. Professore, benvenuto e grazie. Perché insomma l'università ancora nel mirino. Le sembra una soluzione corretta quella di questo professore, dire visto che per noi non valgono le regole non le faccio valere neanche agli studenti? No, certamente no. È una sorta di resa incondizionata che non mi piace per nulla. Il plagio è qualcosa di volgare, abietto, e naturalmente con gli attuali sistemi informatici raffinatissimi diventa molto più facile da attuare e molto più vergognoso da praticare. E quando si scopre va denunciato con forza, chi lo adotta come strumento di crescita e di carriera va escluso dal mondo scientifico e dal mondo dell'insegnamento. Guai ad accettare l'idea che si può lucrare sulle ricerche altrui. Questo è un problema antichissimo. Peraltro vorrei dire che c'è un famoso passo del grande architetto romano che si chiama Vitruvio, nel settimo libro dell'architettura, dove descrive la scoperta di un plagio nella biblioteca di Alessandria con grande vergogna del poeta, abbastanza sciocco, che aveva presentate come sue poesie, pagine di Omero. Ecco, questo era indubbiamente... Non proprio un autore dei più sconosciuti, per così dire. Senta, professore, io le farò una domanda, ma prima devo fare una premessa. Io c'ho un conflitto di interesse che devo dichiarare, cari ascoltatori, perché dovete sapere che io ho un'intera parete a casa mia con tutti, davvero tutti quelli che mi è stato possibile recuperare, i libri scritti dal professor Canfora, che io considero un alieno, perché io non riesco a capire come faccio ad avere una professione di questo tipo. Io sono un appassionato, un mero cultore della materia, di latino, greco, storia classica, e il professor Canfora per me è sempre stato una guida nella vita, davvero. Leggete questo suo ultimo libro, per esempio Tucidide, che apparentemente è una roba per specialisti, ma l'ha avuto davvero Tucidide dell'esilio per via del fatto che il re spartano prese Anfipoli oppure no? Invece sono libri pazzeschi, perché sembra un racconto dell'Atene di allora diventa la politica di oggi, ma tutto rigorosissimo. Quindi io l'amo incondizionatamente, professore, questo malgrado sia marxista, però l'amo, non ci posso fare nulla. Detto questo, però, professore, le parole di Cantone questa settimana sull'università, cioè l'università, la corruzione che vige, eccetera. Allora, lei ha insegnato anche a Bari. Bari è stata un'università molto discussa negli anni per la parentopoli, lei ha due figli in cattedra e così via. Ma possibile mai che l'università italiana sia questa roba di corruzione? Questa è l'idea che arriva agli studenti. Un posto di professori corrotti che pensano solo ai parenti. Ma qual è la sua riflessione su questo? Tra l'altro, dovunque il fenomeno si verifichi, va stigmatizzato, ma purtroppo attraversa l'Atlantico. Potrei dire, ma lo dico scherzando, che le famiglie Bush e Clinton sono, per carità, un archetipo del familismo. E va bene, ma questo non riscatta i familisti. Però c'è un elemento che mi ha un po' sorpreso in questa polemica recentissima, e cioè l'indicazione che è stata data, essere cioè nei concorsi diventata prassi l'abitudine di favorire parenti, figlioli, congiunti, eccetera, e credo sia totalmente anacronistica, perché da molti anni ormai il meccanismo concorsuale è cambiato. Sì. Quindi sono anni e anni. Perché in teoria è fino ai parenti il quarto ordine grado. C'è tutta una teoria buffissima se la moglie sia o no un parente. E va bene, questo bisognerebbe interrogare Platone. Sì. No, così affondiamo troppo nella storia. Noi, professor Canfora, la ringraziamo e ci dobbiamo fermare, caro Oscar. Ci ritroviamo domani, Ci ritroviamo domani, 4:30, professione di Oscar.